Emulando Salomone e la regina di Saba, Gregorio e Matilde rimasero insieme pressoché indisturbati per la maggior parte della settimana. Nella santità della camera, Matilde iniziò il suo amato ai segreti più intimi dello Hieros Gamos, così come erano stati preservati dall'ordine. Si trattava di insegnamenti sacri e gelosamente custoditi, tramandati di donna in donna da migliaia di anni, per dare un'estasi inimmaginabile a coloro che non erano indottrinati. Era un approccio che enfatizzava l'adorazione del corpo dell'amato nella ferma convinzione che fosse il contenitore sacro dell'anima. Sebbene Matilde avesse appreso queste lezioni come parte della sua istruzione, non immaginava che cosa avrebbe significato metterle in pratica. Una volta sperimentate, cambiavano l'esistenza in modo indelebile. Questo era vero tanto per le donne quanto per gli uomini. Isabella inizialmente aveva riso quando aveva istruito Matilde, dicendo che provava compassione per coloro che non avrebbero mai saputo quanto poteva essere squisita l'unione divina. Sai, Matilde, le aveva spiegato, che nessun uomo nella storia dell'ordine si è mai allontanato dalla propria amata. Questo perché una volta che lo Hieros Gamos viene consumato, nell'ambito degli insegnamenti segreti, non c'è nessun altro posto in cui possa andare. Non desidererà mai unirsi a un'altra donna perché sa benissimo che non potrà mai raggiungere gli stessi livelli di estasi con un'altra. È un'estasi che rasenta la divinità. Il suo desiderio per l'amata diventa così singolare e intenso che il suo impegno verso di lei è eterno e la sua fedeltà assicurata. Questo è di per sé un grande dono. Isabella poi si era fatta seria, lasciando intendere che era davvero un peccato che quella beata esperienza del piacere rimanesse sconosciuta a molti. Il percorso specifico per trovare il divino attraverso l'unione sacra era noto solo a pochi e a poche, e i tempi mutevoli avrebbero continuato a minacciare questi segreti finché non fossero stati eliminati quasi del tutto. Persino gli insegnamenti noti a tutti come quelli del Vangelo di Matteo. Essi non erano più due, ma una carne sola, e non osi separare l'uomo ciò che il divino ha unito. Erano stati smorzati nell'interpretazione per estirpare la vera natura sensuale del bel dono che Gesù stava cercando di offrire. Papa Gregorio VII non era un uomo superficiale. La sua attrazione per Matilde non si limitava alla sua bellezza, al suo potere e a tutto ciò che lei aveva da offrirgli grazie alla combinazione di queste due cose. Era perdutamente innamorato di una donna che credeva fosse stata creata per lui. Era arrivato a capire la natura dello Hieros Gamos come esperienza veramente spirituale durante i giorni e le notti trascorse con la gloriosa contessa. Aveva trovato il divino con quella donna in un modo che non avrebbe mai ritenuto possibile. Inoltre, ora più che mai era affascinato al punto da rasentare l'ossessione da tutti questi insegnamenti originali del cristianesimo primitivo. Era diventato papa perché era un riformatore, determinato a riportare la Chiesa a essere un'istituzione sacra e spirituale, dove gli insegnamenti di Gesù erano centrali. Il fatto che Matilde rappresentasse una sfida così grande era importante e allettante allo stesso tempo. Non sono diventato papa perché sono un santuomo, Tilde, le confidò mentre cenavano l'ultima sera che trascorsero insieme a Fiano. Sono diventato papa perché sono un uomo pragmatico e un accorto politico che è interessato alle sorti di Roma e della sua Chiesa. Ma sono serio quando dico che spero di diventare un santuomo mentre occupo questa posizione privilegiata. E cos'è che mi renderà santo mentre siedo sul trono di Pietro? Sarei santo se imitassi Gesù. Eppure più leggo, studio e imparo da te, e più comincio a domandarmi cosa significhi esattamente imitare Gesù. È possibile, mi chiedo, conservare una chiesa con il potere e la struttura necessari per influenzare un gregge che copre tutta l'Europa e anche di più, che sia tuttavia basata interamente su queste idee di amore che hai tu? È un bel dilemma, perché io non credo che una cosa del genere sia possibile. L'amore non conosce ragione, Matilde. Non conosce logica né strategia né leggi al di fuori della sua. Non è qualcosa che può essere controllato, amministrato o trasformato in legge. Non è qualcosa che può essere tassato o da cui può essere tratto profitto. In realtà, ho emanato leggi che vietano l'amore all'interno del mio clero, non è forse così? Ho proibito ai sacerdoti molte cose, ho fatto rispettare la regola del celibato. Ebbene, quelle stesse leggi difendono elementi della Chiesa che necessitano di essere preservati, proteggono la Chiesa in quanto istituzione, cosa che io ho giurato di fare. Devo rimanere fedele a queste leggi perché sono necessarie per il bene supremo. Ma che senso ha se questo bene supremo che sto proteggendo va contro la vera natura di quello che Gesù voleva farci capire? Queste sono le prove che dobbiamo affrontare, prove di fede, di libero arbitrio. Avrò bisogno di te al mio fianco per quanto possibile, dovrai essere la mia compagna mentre navigo in queste acque sconosciute. Il destino ci ha fatto incontrare e ci ha unito, abbiamo l'occasione di cambiare la storia, di far sì che la Chiesa resti forte e che il nostro popolo mantenga Gesù al centro della sua vita. La forma che prenderà tutto questo potrebbe non essere quella che immagini tu. Potrebbe non essere possibile introdurre questa tua via nel mondo che conosciamo, ma faremo ciò che possiamo per proteggere la via e nel frattempo esploreremo quest'idea di amore. Matilde lo provocò come avrebbe fatto ogni giorno della loro vita insieme. Credo che quando avrai più familiarità con il potere semplice e meraviglioso della via dell'amore, la penserai in modo diverso. La via è di tutti, Gregorio, proprio come il regno di Dio è per tutti. Ricchi e poveri, uomini e donne, umili e nobili. È tanto forte da sopportare qualsiasi cosa, tanto forte da portare la pace nel mondo. Gregorio considerò la cosa, mentre il politico pragmatico lottava contro il poeta appena risvegliatosi in lui. Ah, l'amore. È terribilmente complicato, soprattutto negli affari di Stato. È sconcertante, è stupendo, ma soprattutto è qualcosa che non ho mai sperimentato prima. E così, prima che tu parta per la Toscana domani mattina, devo chiederti: prometti di starmi accanto, Matilde, di aiutarmi a capire come preservare la Chiesa in modo da non indebolirla davanti alle grandi minacce che affrontiamo ogni giorno e come proteggere, tuttavia, queste tradizioni che tu reputi vere? Matilde gli prese le mani dall'altra parte del tavolo e le strinse fra le sue, quindi gli rispose semplicemente con il voto che non avrebbe mai spezzato. Sempre, sempre. Roma, marzo 1075. Matilde era di nuovo a Roma e si rallegrava ogni istante di stare con il suo diletto. Si era appena concluso con grande successo il secondo sinodo del pontificato di Gregorio, in cui il Dictatus Pape era stato presentato al mondo. I principi che enunciava erano il frutto dei giorni e delle notti che avevano trascorso insieme, un progetto appassionato di due anime che erano decise a riformare la Chiesa e a difenderne sia l'assetto sia lo spirito dai suoi nemici più pericolosi. Il documento differiva da qualsiasi testo mai promulgato dalla Curia Pontificia. Era radicale, audace e costruito in modo brillante. Fondamentalmente, Papa Gregorio VII osò affrancare la Chiesa e tutti i suoi fedeli dall'obbedienza a qualunque monarca o capo secolare del mondo cristiano. La Chiesa fu dichiarata l'unico arbitro di giustizia sulla terra e dentro quella giustizia tutte le persone erano create uguali agli occhi del divino. Il Dictatus Pape specificava che questa legge di uguaglianza, così come era stata affermata da Gesù, si applicava per tutti, comprese le donne e gli schiavi, e persino il re. Nessuno era migliore o peggiore di un altro, nessuno aveva più o meno valore agli occhi divini. Era il primo documento nel suo genere a proclamare l'uguaglianza umana al di là del sesso e dei limiti economici. Era assolutamente rivoluzionario. L'influsso di Matilde sul Dictatus era lampante. Per chi aveva occhi per vedere. In questo nuovo mondo di uguaglianza, il feudalesimo, la struttura sociale ed economica su cui si basava la vita dell'intero continente europeo, veniva sostanzialmente meno. Il Papa ormai era la sola autorità di giustizia nel mondo e per consolidare la forza della Chiesa, guidata dal suo difensore scelto da Dio, il Dictatus Pape dichiarava il pontefice infallibile. Roma era il centro del mondo civilizzato e Dio era l'unico governatore, e in nome di Dio il Papa avrebbe amministrato tutta la giustizia, così come la distribuzione della ricchezza e del potere che provenivano dalla Chiesa. Era scandaloso Il diktatus Pape costituiva una rivoluzione senza precedenti, separava Roma, in quanto unica rappresentante del volere divino, da tutte le influenze secolari e tentava di togliere potere alla maggior parte dei signori temporali europei, primo fra tutti Enrico. Collocava Roma e il papato al centro dell'universo come assolutamente onnipotenti. Ma Gregorio, che sembrava prosperare nonostante le polemiche, non aveva finito. Erano circolate delle voci sulla sua relazione con la straordinaria contessa di Canossa, e in effetti lei era profondamente disprezzata dalle famiglie più importanti di Roma, che la vedevano come un'intrusa dall'influenza pericolosa. I sostenitori di Gregorio e Matilde avevano condannato i pettegolezzi come ricatti politici e gelosie, e per il momento la cosa era stata accettata dalla popolazione di Roma, che era ancora propensa ad appoggiare il carismatico Gregorio. Tuttavia il Papa era deciso a disperdere queste voci prima che potessero trasformarsi in qualcosa di più pericoloso per lui e per la sua amata. Ricorrendo all'astuta strategia politica secondo la quale la miglior difesa è l'attacco, Gregorio impose regole severe riguardo alla sessualità all'interno del clero come supplemento alle prime leggi che aveva emanato sotto Niccolò II. Pretese che ogni sacerdote che violava la regola del celibato fosse subito sollevato dal suo incarico e ordinò ai vescovi di predicare la necessità del celibato e di un corpo e un'anima immacolati per tutti i membri del clero, e inasprì le leggi che vietavano a qualsiasi prete di mettersi in condizione di poter essere lasciato da solo con una donna. La questione della condotta irreprensibile dei preti fu evidenziata con così tanta forza che divenne impossibile per chiunque sostenere che il Papa stesso non fosse celibe. Di sicuro nessun uomo era tanto audace da enfatizzare con tale zelo una regola così severa per poi violarla. Tutti i pettegolezzi sulla sua condotta sconveniente con Matilde cessarono all'improvviso grazie a queste disposizioni. Una cosa del genere non era proprio possibile. Ma quello che gli abitanti dell'Europa avevano dimenticato a causa di queste nuove leggi era che Gregorio VII non era un uomo, né un prete qualunque, era il Papa, e come tale non era più soggetto ad alcuna legge tranne quella divina. Egli era, in virtù dei principi enunciati nel Dictatus Pape e di quelli della donna che amava, infallibile. Le promesse di Enrico sono senza valore, è un re senza onore, quindi non è affatto un re. Matilde misurava a grandi passi i corridoi dell'isola Tiberina, fortezza e torre di guardia che si trovava sulla riva del Tevere ed era diventata il suo quartier generale quando faceva visita a Gregorio a Roma per periodi di tempo prolungati. La sua filippica era una reazione alla notizia che Enrico aveva tradito la promessa di fedeltà fatta al Papa. Lui e le sue truppe tedesche, con un discreto aiuto da parte della Lorena, avevano sconfitto i Sassoni il 9 giugno 1075 nella battaglia di Hohenberg dopo anni di guerra. La vittoria decisiva e il successivo appoggio che il sovrano stava ricevendo nei territori del nord avevano alimentato il suo orgoglio e la sua ambizione, ed Enrico aveva intrapreso un'azione decisiva contro Gregorio. Fremeva da 3 mesi ormai dopo il Diktatus Pape, e così pure i suoi vescovi in Germania e in Lombardia. Nella loro ottica, il nuovo Papa era un asino bardato e anche pericoloso. Come osava affermare la sua supremazia addirittura sul re? Enrico era stato costretto ad aspettare il momento opportuno, ma i venti del potere avevano ripreso a soffiare in direzione della Germania. Per chiarire la sua posizione, reintegrò i vescovi scomunicati che gli avevano pagato un enorme tributo nel frattempo. Il vescovo Teobaldo, quello che si opponeva nel modo più radicale alle riforme di Gregorio, adesso fu insediato come arcivescovo di Milano, mettendo la Lombardia in totale opposizione al papato. Questi erano palesi atti di simonia e di investitura laica da parte di Enrico, violazioni intenzionali di tutto ciò che Gregorio affermava. La guerra era stata dichiarata in modo ufficiale. Guardava Matilde camminare su e giù, ma restava seduto al suo posto. Sarebbero dovuti tornare subito in Toscana, davanti a quella nuova minaccia. Doveva farlo capire a Matilde. Lasciare Roma e Gregorio non era mai facile per lei, ma era necessario. Matilde, Enrico non è il nostro unico problema. Goffredo ha mandato un'altra lettera in cui rivendica i suoi diritti come duca di Toscana, nonché come tuo marito. Enrico gli ha offerto il suo aiuto militare, qualora fosse necessario, per riprendersi sia te sia la Toscana. Le tue recenti azioni a Montecatini hanno portato il gobbo al limite della sopportazione, a quanto pare, insieme alle solite cose. Nel mese precedente Matilde aveva ceduto con un atto legale le sue preziose proprietà di Montecatini ad Anselmo di Lucca come dono da parte dell'ordine. Quelle erano le sue terre, ereditate da Bonifacio e per quanto la riguardava aveva il diritto di elargirle a chi voleva. Tuttavia, in base alla legge emanata dal sovrano tedesco, solo a Goffredo spettava il diritto di amministrare la regione della Toscana. Il Papa ovviamente aveva sostenuto il diritto di Matilde di disporre delle sue terre come desiderava e si era rifiutato di accogliere la protesta di Goffredo. Malgrado i suoi tanti odiosi difetti, quest'ultimo non era del tutto stupido. Sapeva bene delle voci che circolavano sui rapporti della moglie col Papa e quella consapevolezza era una continua spina nel fianco. Durante la campagna di Sassonia, persino il re si era lasciato andare a commenti lascivi sulla demoniaca tentatrice dai capelli rossi che, cosa inaudita, era riuscita a far cadere in tentazione il Santo Padre. Il recente affronto di Montecatini aveva incrinato l'equilibrio mentale di Goffredo, sempre molto precario quando si trattava della moglie. Non ho paura di lui, Con. Porterò la sua lettera a Gregorio questa sera e gli chiederò qualche consiglio per tenerlo a bada. Con era esasperato. Non c'è tempo! Dobbiamo partire oggi! Ora, se il gobbo arriva in Toscana e tu non sei lì a difenderla, chissà cosa potrebbe succedere. Arduino è lì e anche mia madre. Loro non sono la Toscana, tu lo sei. I tuoi sudditi avranno bisogno di vederti in mezzo a loro quando cominceranno a circolare questi pettegolezzi. Quali pettegolezzi? I soliti? Nessuno ci crede più ormai. Gregorio li ha messi a tacere. Il massiccio guerriero a quel punto si alzò e tirò un profondo respiro. Matilde, Goffredo e quella sottospecie di re sono pronti a distruggerti, devi fartene una ragione. Hanno cominciato una campagna contro di te e contro la tua reputazione. Avrei voluto risparmiartelo perché ti conosco troppo bene e so che a dispetto della tua apparente forza queste cose ti feriscono nel profondo. Matilde smise di camminare su e giù e si preparò ad ascoltare il resto. Dalla Lorena si è sparsa la voce che tu abbia ucciso tua figlia. Più di una voce, in effetti, perché sai cosa succede quando cominciano a circolare i pettegolezzi. Sono tutte ridicole, ovvio. Sono solo le superstiziose ciarle di gente ignorante, ma sono anche pericolose. Secondo una di esse avresti sacrificato la tua bambina al demonio per ottenere tutto questo potere e tutta questa ricchezza. Ce n'è una simile, ma ti basti sapere che ha a che fare con rapporti carnali fra te e il diavolo, descritti in modo fin troppo vivido. Un'altra è che hai soffocato la bimba alla nascita davanti a tuo marito per spaventarlo e sottometterlo a te, sempre con l'aiuto del demonio. Credo che questa sia quella che Goffredo sta appoggiando per ottenere compassione. La gente della Lorena vuole il tuo sangue perché ti crede una strega. Matilde si sedette lentamente, nauseata da quanto aveva appena ascoltato. Con aveva ragione. Quelle terribili dicerie la ferivano nel profondo. Le vedeva per ciò che erano, ma la facevano soffrire ugualmente, in modo spaventoso. Perché la provvidenza le aveva dato una simile responsabilità, persino una simile abilità come guerriera, e non un po' più di insensibilità alla sofferenza emotiva? Avrebbe sofferto in silenzio per queste cose, per tutta la vita, in tutte le notti lunghe e buie in cui il sonno si rifiutava di andare da lei. Con parlava con tutta la sua passione celtica ormai, poiché sapeva come risollevarla quando si sentiva sconfitta, spostando la sua concentrazione dalle circostanze personali e spingendola a sposare una causa più grande. È una guerra di propaganda, Matilde, ed è il flagello dell'umanità da troppo tempo, tanto che si arriva a infangare il nome di una donna per diminuirne il potere. Una guerra sporca, le donne potenti hanno sempre fatto sentire minacciati gli uomini dalla volontà debole. Devi combatterla come ha fatto Boudica, devi fare tuo il suo grido di guerra. Matilde alzò lo sguardo verso di lui, non proprio padrona della sua solita natura energica e temeraria, ma sforzandosi di fare quello che doveva fare. Si alzò e gli tese la mano. La verità contro il mondo. Lui le prese la mano e l'abbracciò. Così mi piaci. La verità contro il mondo. Andiamo, mia piccola Mazzone, andiamo in Toscana a dare la caccia ai gobbi e alle vipere tedesche.